il centro-sud, dice la Corte dell'Aia. La Germania non deve risarcire le vittime italiane dei nazisti. Inflazione a gennaio al 3,2%, il carrello spesa rincara del 4,2%, diventa più tecnologico il paniere 2012. Ferrari, il futuro ricomincia dalla F2012, presentata solo sul web a causa del maltempo. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Quarto giorno di gelo dunque sull'Italia ed il centro Italia è davvero in ginocchio. La notizia è stata battuta poco fa dalle agenzie e riguarderebbe una vittima, un 46enne di Isernia, che è stato trovato morto nella sua auto ferma sulla statale 17 nei pressi di Cantalupo nel Sannio. L'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato colto da malore. L'auto era coperta di neve. Ovviamente queste sono le uniche notizie che sono state fornite al momento dalle agenzie. Nevica anche in maniera abbastanza forte a Roma. Noi tra poco ci collegheremo con Vincenzo Miglietta per sapere che cosa sta succedendo. Ci colleghiamo però sempre con la capitale, ma prima con la nostra Alessandra Schepisi, perché è in corso il Consiglio dei Ministri ed è stato approvato proprio in questi minuti il decreto legge sulle semplificazioni. Alessandra. Sì, è arrivato proprio in questi minuti il disco verde al testo definitivo del decreto semplificazioni. Il provvedimento è stato varato la scorsa settimana, ma il governo aveva poi deciso di fare ulteriori approfondimenti e verifiche per risolvere alcuni problemi tecnici di coordinamento con le norme in vigore, snellire la burocrazia, velocizzare le pratiche, cancellare leggi ormai superate, gli obiettivi. In particolare arriveranno certificati più veloci per i cittadini e per le imprese, la carta d'identità e i documenti di riconoscimento cadranno al compimento del compleanno con la possibilità che il documento duri di più, ci saranno cambi di residenza in tempo reale, ma anche panettieri aperti la domenica, bollino blu per l'auto rinnovato ogni 2 anni e non più ogni anno, mentre è stata stralciata dal decreto sulle semplificazioni la norma che prevedeva autorizzazioni più facili per le sale cinematografiche entro i 3.000 posti. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra, e noi come detto restiamo nella capitale, ma per parlare del maltempo, di questa nevicata anche intensa che sta interessando la capitale. Allora noi ci colleghiamo con il centro di Roma, con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, dove ti trovi? Sì, buongiorno, potremmo dire finalmente la neve a Roma. Mi trovo al centro proprio della città, tra Via del Corso e Piazza Colonna. Il paesaggio sta iniziando a cambiare con la neve che sta ricoprendo macchine ed asfalto. Tutto dunque come da previsioni meteo che prevedevano per la mattina pioggia mista a neve per virare poi nell'arco della giornata a nevicata abbondante, ed è quello che sta accadendo. Ricordiamo l'ordinanza del sindaco Alemanno per oggi e domani, scuole comunque aperte ma ragazzi giustificati qualora non ci fossero le condizioni per recarsi negli istituti. Sul fronte della viabilità al momento non si segnalano particolari disagi, questo almeno all'interno del grande raccordo anulare. Più congestionata invece la situazione al di fuori dello stesso e verso il nord-est della città, mezzi pubblici di superficie a gran completo, in funzione regolarmente la metropolitana, sono pronti e si stanno già muovendo i mezzi spargisale per evitare che la neve possa trasformarsi in ghiaccio. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, e lo ricordavi, a Roma nelle scuole oggi e domani si ferma la didattica, chi vorrà però potrà portare i figli negli istituti, una decisione presa nel pomeriggio di ieri da Alemanno ma contestata dai presidi. La Regione Lazio non fermerà le lezioni, ha invece spiegato all'assessore all'istruzione Gabriella Santinelli. Sentiamola appunto l'assessore al microfono di Cristina Carpinelli. Non abbiamo deciso niente, la Regione Lazio non ha preso decisioni, quindi adesso sento la Presidente se per domani vuole chiudere le scuole del Lazio, però noi non abbiamo deciso niente, la presa la decisione su Roma città l'ha presa Alemanno, che poi se chiude la Regione sul calendario scolastico c'è un problema di recupero dei giorni, quindi se possiamo evitare, vediamo che non è una situazione tragica, non mi sembra almeno su Roma una situazione tragica assolutamente, piove neanche tanto forte, io credo che se possiamo evitare lo evitiamo. Quindi era meglio evitare secondo lei anche questa cosa? Questo non me la faccio esprimere. Il Viminale invita automobilisti e conducenti a non mettersi in viaggio verso il centro Italia. Sul fronte trasporti, intendiamo treni e aerei, sembra andare meglio, sulle strade invece no, ed in Europa cresce molto il numero dei morti. wirus, który ogarnął sporą część Europy, niesie ze sobą śmiertelne żniwo. Sono più di 120 le persone morte nell'Europa centro-orientale per colpa del freddo. Quasi tutti non avevano una casa o non avevano in casa il riscaldamento. In Serbia, per la neve, quasi 12.000 persone sono isolate in 15 villaggi. Le temperature, che in alcuni posti sfiorano i 30 gradi sotto zero, scenderanno soltanto a partire da domenica. L'Ucraina e la Polonia, i paesi più colpiti. In Ucraina 60 persone sono morte assiderate nell'ultima settimana, in Polonia nelle ultime 24 ore sono morte altre 8 persone per ipotermia, portando così il numero delle vittime a 37. È anche molto importante che i cittadini si facciano solidali, perché in un momento come questo la capillarità è l'unica cosa che può salvare delle vite. Ci dice così Alberto Bruno, a capo della Croce Rossa di Milano, la città in cui ieri sera è morto un clochard. Una regola, quella della solidarietà, che va bene sempre e ovunque. La neve e il gelo stanno rendendo difficoltoso il traffico nel centro Italia, strade chiuse in molte zone del Molise, che è una delle regioni in questo momento più in difficoltà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lo sport ha subito molto questa ondata di maltempo, soprattutto il calcio. Lo sapete, ieri la Lega ha anticipato tutte le partite, tutti gli incontri previsti per domani e dopodomani alle 15, compreso Milan-Napoli. Adesso si parla di nuovi rinvii, soprattutto già sono state rinviate molte partite di B. Accanto a me Carlo Genta. Carlo, insomma. Ciao Narita, buongiorno a tutti. Vabbè, non ci si può far nulla, insomma, contro questa ondata di gelo. Anche il calcio deve cambiare i suoi orari e le sue abitudini, come è giusto che sia. Quindi per quanto riguarda la Serie A c'è Roma-Inter che è in programma domani pomeriggio alle 15, nevica su Roma come avete sentito, però le attrezzature di cui l'Olimpico dispone non dovrebbero mettere a rischio questa partita. È quasi certo, anche se non ufficiale, invece il rinvio dell'altro anticipo di Serie A, e cioè Cesena-Catania. Aspettiamo l'ufficialità di questa decisione, che però pare ormai certa. Domenica alle 15 si giocano tutte le altre partite di Serie A, quindi non ci sarà calcio domenica sera. Per quanto riguarda la Serie B, l'hai detto tu, rinviate ed è ufficiale Sassuolo-Ascoli. Poi ci sono due partite che si dovevano giocare lunedì sera e sono state anticipate a domenica alle 15. Si tratta di Brescia-Torino e di Vicenza-Cittadella, che quindi giocheranno in contemporanea con la Serie A domenica alle 15. Per il resto, al momento è tutto confermato. Ti posso fare una domanda risposta telegrafica? No. Ma secondo te, dopo questa ondata di maltempo, qualcuno si chiederà l'anno prossimo che dobbiamo fare o resta tutto uguale? Io credo che rimarrà tutto così, insomma, mi sembra una situazione abbastanza emergenziale. Poi ci sono un sacco di polemiche sull'opportunità di giocare nelle notti d'inverno. Queste resteranno di certo, ma vedrete che resterà anche il calcio di notte d'inverno col gelo. Ci sono altri interessi, esatto. Grazie al nostro Carlo Genta. Noi torniamo alla politica, ancora scossa dal caso Lusi, l'inchiesta potrebbe estendersi. Intanto è in corso da circa un'ora in Procura a Roma l'audizione di Arturo Parisi, esponente del PD, viene sentito come persona informata sui fatti. E paese che vai, usanze che trovi, perché pensate che invece il ministro dell'energia britannico, Chris Huhne, ha annunciato le proprie dimissioni dopo l'incriminazione per una multa per eccesso di velocità di cui si era addossata la colpa la ex moglie. Yuna si è detto innocente e ha annunciato che intende difendersi in tribunale, che per questo si è dimesso. In Italia invece vanno di scena perfino i rivoltosi del vitalizio. 23 ex deputati e 3 parlamentari in carica si sono infatti ribellati alle nuove regole che trasformano i vitalizi in normali pensioni e ritardano l'età in cui si inizia ad intascare, da 50 a 60 anni. Giulio Arrighini della Lega, ospite di Alessandro Milan. Sono assolutamente favorevole, ripeto, anche all'abrogazione del vitalizio per un parlamentare. Purché questo valga per tutti, anche perché siamo davvero convinti che questo comporti qualche risparmio considerevole per la Camera dei Deputati. Sarebbe stato molto più incisivo sul piano della riduzione dei costi allargare la platea. Il parlamentare in carica si trova automaticamente accantonate le quote relative appunto al vitalizio. Il parlamentare che decade dalla carica, se vuole completare il periodo mancante di legislatura, deve metterci dei soldi propri. Cito... Per cui sì, perché in quel monte accantonato ci sono i risparmi di chi ha fatto una scelta sulla base di accordi prestabiliti. La nostra rubrica Paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Perfino a Milano capita anche che un bancario incassi 5.000 euro in nero per concedere un mutuo a condizioni favorevoli, diventando così non solo un evasore fiscale, ma sconfinando nella frode. È successo a un cliente al terzo incontro per verificare la possibilità di ottenere un prestito dalla banca per l'acquisto di un immobile. A ogni visita il bancario faceva pesare al malcapitato ostacoli sempre più difficili da superare, finché non è arrivata la richiesta esplicita. Via libera al tanto desiderato mutuo e perfino a buone condizioni un tasso fisso al 5,6% con tanto di assicurazione sulla vita e contratto ventennale. Uno sport da paese sommerso più truffa denunciato da un ascoltatore a Radio 24. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Palermo in chiusura di questa prima parte. Ci sono state importanti rivelazioni stamani al processo al generale del ROS Mario Mori, riguardano Borsellino. Sentiamo. Non solo sapeva di essere il prossimo nel mirino della mafia, scoprì pure che un attentato era già in preparazione, ma confidò che doveva lasciare qualche spiraglio ai boss, altrimenti, fu il commento di Paolo Borsellino, se la prendono con la mia famiglia. È il racconto di un sacrificio quasi volontario, di un destino abbracciato quasi consapevolmente dal giudice, quello che viene fuori dall'ultima deposizione al processo contro il generale Mario Mori. Sul banco dei teste parla il colonnello Umberto Sinico dell'anticrimine e riferisce di un colloquio avuto con Borsellino un paio di settimane prima della bomba di Via D'Amelio. Allora al magistrato erano state già riportate le rivelazioni di un confidente, Girolamo Danna, boss di Terrasini, che in carcere aveva saputo dell'attentato in preparazione e dell'arrivo a Palermo dell'esplosivo. Ma quando tutto questo fu riferito a Borsellino, lui disse: lo so. Sembrava non volersi opporre a questa sorte, dichiara ora il teste, escludendo con le sue affermazioni sia l'ipotesi di contrasti tra il giudice e l'anticrimine, sia le tesi secondo cui al magistrato fossero state nascoste le notizie sull'arrivo del tritolo. Sarebbe stato invece, secondo quest'ultima deposizione, lo stesso Borsellino a chiedere di lasciare buchi nella sua vita blindata, perché altrimenti le ritorsioni della mafia, e questa era la sua paura, si sarebbero consumate sui suoi cari. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E 13 e 16 minuti nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dell'Italia al gelo, dell'abbondante nevicata su Roma. Colosseo, Foro e Palatino sono chiusi per neve. Evitate i viaggi verso il centro-sud, dice il Viminale. Tra pochissimo parleremo della decisione della Corte dell'Aia. La Germania non deve risarcire le vittime italiane dei nazisti. Parleremo anche di inflazione, a gennaio al 3,2%. Intanto diventa più tecnologico il paniere 2012. Subito però, tra pochissimo, parliamo della Ferrari, del futuro che ricomincia dalla F2012. Ancora una buona giornata da Anna-Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo da qui, come detto, da questa presentazione della F2012, dominata anche questa dal maltempo. Accanto a me c'è Enrico Pagliarini. Enrico, tu ti trovavi proprio a Modena oggi, esatto, il maltempo c'era. Oggi è una bella giornata, però le strade sono bianche, quindi è nevicato molto. Effettivamente, insomma, è stata una giusta decisione quella di annullare la presentazione fisica, presentazione più ecologica via internet. Montezemolo ha scherzato subito sulla neve, perché ha ricordato che la mamma di Ferrari era andata all'anagrafe del comune il giorno dopo rispetto alla nascita perché c'era la neve. Allora ha detto: speriamo che anche a noi porti fortuna la neve. Allora, io l'ho vista la monoposto. Sì. Ho visto l'operazione di togliere il drappo rosso. Classico, allora, io che non capisco eccetera, nulla, eccetera. La vedo sempre bella, ma sempre uguale. Sì, diciamo che per l'uomo della strada è forse molto simile a quelli che abbiamo già visto. Pensa che Alonso ha detto: è una macchina molto diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. In effetti, sono proprio io che non capisco. No, ma in effetti è così. Vista dal fianco cambia molto poco. Ci sono moltissimi particolari aerodinamici che cambiano. Forse la cosa che spicca di più è se tu la guardi dal fronte, perché c'è un fronte molto alto, alcuni hanno addirittura scherzato, sembra un trattore, adesso, con le dovute differenze. Su questo sentiamo Domenicali, che è, come dice il gergo della Formula 1, il team principal della scuderia Ferrari. Ma insomma, proprio bella da un punto di vista estetico direi di no, ma detto questo, come ha detto anche il nostro presidente, questo valore in Formula 1 non è così fondamentale. Ovviamente certe linee sono da un lato dettate dal regolamento, altre da scelte per privilegiare la performance, soprattutto aerodinamica. Allora, si è ripresa una tradizione che è quella di chiamare l'auto col nome dell'anno, perché l'anno scorso è stata fatta una gaffe, ispirato da un buon principio, cioè si era chiamata l'auto F-150 in onore dei 150 anni dell'Italia. Peccato che la Ford abbia fatto causa alla Ferrari, abbia cercato di far causa, poi è stato deciso di togliere questo nome perché l'F-150 è un famoso pick-up. Detto questo, questa auto è sicuramente un'auto che punta al titolo, perché quest'anno la Ferrari punta e dovrebbe essere l'anno, insomma, in cui tutti sperano che la Ferrari torni a vincere il mondiale. E proprio sulla stagione, sentiamo sempre Domenicali. Ho visto in quest'inverno, come abbiamo detto, una grandissima volontà, voglia di riscatto, determinazione, approccio anche diverso al modo di lavorare, quindi questi sono sicuramente elementi che mi fanno ben sperare, consapevole ovviamente che sarà una stagione dove i nostri avversari avranno ancora di più la voglia di batterci per dimostrare chi ha vinto di essere ancora più forte e chi è arrivato dietro di voler superare tutti, quindi una stagione molto intensa dove credo tutti quanti non vediamo l'ora di confrontarci per capire davvero i valori di riferimento che avremo in partenza. Adesso ci saranno 12 giorni di prove, solo 12 giorni, sempre a causa di questo regolamento molto restrittivo, che si faranno a Jerez de la Frontera e a Barcellona in Spagna, tutti pronti per il 18 marzo, quando in Australia, a Melbourne, con sicuramente temperature un po' più elevate, partirà la Formula 1 di quest'anno. Grazie al nostro Enrico Pagliarini. Noi parliamo del tasso di inflazione annuo, che a gennaio segna un lieve rallentamento, passando al 3,2 dal 3,3 di dicembre. Lo rileva come sempre l'Istat, che indica un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,3%. Ben superiore invece il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, ovvero i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dagli italiani. Nel mese di gennaio è pari al 4,2% su base annua. Intanto il paniere 2012 diventa più tecnologico. Entrano l'ebook download, il libro elettronico, l'ebook reader, l'apparecchio per la lettura, i PC portatili compatti e gli ultrapiatti. Stiamo parlando del nuovo paniere dell'Istat. Anche le lotterie istantanee come il gratta e vinci, le scommesse sportive, voce per la quale spiega l'Istat la spesa delle famiglie è notevolmente aumentata, entrano a loro volta nel paniere. Scommesse che riguardano tanti e diversi eventi sportivi, dal calcio al tennis, dalla Formula 1 al basket, passando per il motociclismo e i giochi a base ippica. Nel paniere poi anche la mediazione civile. Inoltre, una delle modifiche maggiori riguarda la posizione dell'energia elettrica disaggregata in base alle tariffe orarie. Quest'anno sono 84 i comuni capoluogo di provincia con una lista di 1.398 prodotti aggregati in 597 posizioni rappresentative a concorrere al calcolo dell'inflazione nel nuovo paniere Istat. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo avete sentito nei titoli, la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia ha accolto il ricorso della Germania contro l'Italia per ottenere il blocco delle indennità alle vittime dei crimini nazisti. Secondo la sentenza, l'Italia ha mancato di riconoscere l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale a Berlino. La lettura, pensate, di questo dispositivo è durata 80 minuti. La Corte ha accolto tutti i punti di ricorso presentati dalla Germania e vedremo nelle prossime ore quali saranno le reazioni che questa sentenza susciterà. Ci spostiamo in Egitto. Attivisti egiziani hanno indetto per oggi al Cairo una manifestazione per chiedere le dimissioni della giunta militare dopo la morte di 74 persone a Porto Said due sere fa al termine di una partita di calcio. I dimostranti chiederanno le dimissioni della giunta militare, ritenuta responsabile di quanto accaduto e giudicata soprattutto incapace di gestire la transizione dopo le dimissioni di Mubarak. Già ieri ci sono state proteste a Suez e al Cairo che hanno causato due morti e 650 feriti. Oggi intanto, sempre dall'Egitto, arriva un'altra notizia molto preoccupante. Due turiste americane sono state rapite da un gruppo di beduini armati e mascherati nella città di Da'ab, sulla costa sudorientale del Sinai. L'ONU ha annunciato la fine dello stato di carestia in Somalia, oltre 6 mesi dopo averlo dichiarato, ma avverte che comunque l'emergenza continua. Al microfono di Katia Caramelli, Mario Zappacosta, economista della FAO. Segnali positivi c'erano stati a metà novembre, infatti ricordiamo che alcune delle 6 zone che erano in stato di carestia erano state downgraded a uno stato di emergenza e adesso con il progredire della raccolta dei cereali, che è stata particolarmente buona, le Nazioni Unite, controllando alcuni indicatori tra cui quello della mortalità,